50 domande su Gesù. Che differenze ci sono tra i Vangeli canonici e gli apocrifi? La prima differenza comprovabile, che i Vangeli canonici sono ispirati da Dio, è di tipo esterno agli stessi Vangeli. Quelli canonici appartengono al canone biblico, cioè sono la regola, il canone della fede. Gli apocrifi no. I canonici furono accolti come tradizione autentica degli apostoli da tutte le chiese d'Oriente e d'Occidente della generazione immediatamente posteriore agli apostoli, mentre gli apocrifi, sebbene alcuni fossero usati sporadicamente in qualche comunità, non arrivarono a imporsi né ad essere riconosciuti dalla Chiesa universale. Una delle ragioni importanti per questa selezione, comprovabile dalla scienza storica, è che i canonici furono scritti in epoca apostolica, intesa questa in senso ampio, cioè a dire mentre vivevano gli apostoli o i loro stessi discepoli. Questo si deduce dalle citazioni che ne fanno gli scrittori cristiani della generazione seguente e dal fatto che verso l'anno 140 si arrivi ad una armonizzazione dei Vangeli prendendo dati dei quattro che divennero canonici, come riferisce Taziano. Degli apocrifi invece solo si fanno riferimenti in tempo posteriore, verso la fine del secondo secolo. D'altra parte, i papiri che si sono trovati con testi simili nella struttura letteraria ai Vangeli, alcuni della seconda metà del secondo secolo, come il papiro di Egerton, sono ridotti a piccoli frammenti, segnale che le opere che vi erano trascritte non furono stimate così importanti da essere trasmesse con particolare cura alle successive generazioni. Rispetto agli apocrifi che già si conoscevano, o che sono stati scoperti in epoca recente, bisogna dire che le differenze rispetto ai canonici sono molto evidenti tanto nella forma letteraria come nel contenuto. Quelli già noti e che si conservano già nell'epoca patristica e nel Medioevo sono racconti devozionali di carattere leggendario e ricchi di episodi fantastici. Nacquero spontaneamente per soddisfare la pietà popolare, narrando minuziosamente ma senza rigore storico fatti che nei Vangeli canonici non si raccontano o si espongono in maniera succinta. In generale riportano racconti sulla nascita della Madonna, di San Gioacchino e Sant'Anna, come il Vangelo della Natività di Maria, di come una levatrice comprovò la verginità di Maria, protovangelo di Giacomo, dei miracoli che faceva Gesù da bambino, Vangelo dello pseudo Tommaso, eccetera. Di diversa impostazione sono i documenti trovati su papiri a Nag Hammadi in Egitto. Quanto al contenuto dottrinale, hanno un carattere marcatamente gnostico e non cristiano. Quanto alla forma, si presentano come raccolte, spesso senza alcuno schema cronologico o storico, di detti segreti di Gesù. Per esempio il Vangelo copto di Tommaso, o di rivelazioni del Signore risorto sulle origini del mondo materiale, come l'apocrifo di Giovanni, o sull'ascensione dell'anima, il Vangelo di Maria, o raccolte di pensieri tratti forse da omelie o catechesi, il Vangelo di Filippo. Quantunque alcuni possano godere di una certa antichità, forse del secolo II, la differenza di stile e di contenuto con i Vangeli canonici salta immediatamente alla vista.